ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Ma certamente, cioè, quello che succede, che è successo da noi, sono le dinamiche tipiche di una squadra, di un gruppo sportivo, di una squadra di calcio, quindi assolutamente tutto ormai dimenticato. La presenza di Steve è una presenza importante in quanto è presente come presidente, come proprietà, è un significato proprio in termini di stimoli nuovi. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ripeto, io non sono una persona che è politica, ecco, io sono una persona che comunque guarda molto al sodo, a volte capita che dico quello che penso, però sempre in maniera costruttiva, senza voler offendere nessuno o chissà chi. Cross in zona, Lukaku, Lautaro Martinez! Lautaro la sblocca al 19esimo, si sblocca quando serve, 1-0, primo gol Europa League. Velo di Barella, Lukaku si lancia da solo, va veloce Lukaku, contro Cocciolava, Lukaku, mostruoso Lukaku, 5-0 Inter, doppietta. Adesso l'importante è, dobbiamo recuperare energie e prepararci poi per dare una gioia ai nostri tifosi, al popolo interista che sicuramente ci sta seguendo con tanto entusiasmo e penso che siano orgogliosi, ecco, della squadra, di questi ragazzi. Dunque, magari il campo alla fine racconterà qualcosa di diverso, ma secondo me oggi Inter e Bayern somigliano al meglio che c'è di questo agosto d'Europa. Molto interessante, magari il radio tweet di Pierluigi Pardo parlerà di tutt'altro. No, il mio radio tweet è dedicato al valore delle finali, perché continuamente sui social network assisto alla sfida tra interisti e juventini, è il caso, diciamo, più classico, no? Su tutto, sul fatto che poi tanto se perdi rosichi, sul fatto che magari in questo caso l'Europa League viene considerata come una coppa meno importante della Champions. È importante fare risultato, è importante fare risultato. Gli addetti ai lavori, i dirigenti, gli allenatori, i calciatori sanno che quella è la cosa più importante. L'Inter ieri ha fatto un altro passo, l'aveva fatto qualificandosi battendo il Getafe, l'aveva fatto qualificandosi battendo il Bayer Leverkusen, ieri in maniera veramente, devo dire, virtuosa, l'ha fatto centrando una finale in una coppa che per le squadre italiane mancava da tantissimo tempo, ed è un risultato, così come fu un risultato quello della Juve di arrivare a Berlino, a Cardiff. Poi è ovvio che è fondamentale vincere la finale, è fondamentale, fa tutta la differenza del mondo dal punto di vista del tifoso, è la differenza fra una grande goduria e una grande rosicata, per dirla in termini molto prosaici. Però il lavoro, se noi dobbiamo valutare le prestazioni, dobbiamo valutare la crescita, dobbiamo valutare l'impegno, insomma, quello che è successo ieri è qualcosa di grande, un grande risultato grande sportivo dell'Inter in questa campagna europea, quando alla finale, che sarà un'altra battaglia. Ma anche lì passerà tutta la differenza del mondo fra vincerla e perderla. Ogni tanto, carità, ci capita di ricordarlo anche oggi, no? Che quelli della Juventus in finale di Champions furono due grandi risultati sportivi. È chiaro che tra vincere la finale e perderla passa tutta la differenza del mondo. E poi furono anche due prestazioni molto diverse. Berlino è una cosa, Cardiff è assolutamente, però cosa, già arrivare lì in purezza è un grande risultato sportivo. Poi la finale, va bene, ne parleremo quando verrà giocata. Io vorrei che invece Franco Ordine mandasse un messaggio al suo amico Biasin. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, io mi sono limitato solo e soltanto a scrivere un brevissimo post stamattina a Biasin per dire allora? Ti ha risposto? non ho ancora risposto, spero che in questa circostanza non si tiri indietro. Beh, e che mi risponda. Ma che devo rispondere a un posto che c'è allora, e allora? Ma che perché? Cosa vuol dire? No, vuol dire questo, allora, che nei giorni complicati, obiettivamente, anche Biasin, che però devo dire con, diciamo, fare molto diplomatico e usando moltissima dosi industriali di vasellina, comunque insomma ha cominciato un po' a scendere un po' dal in maniera molto cauta, sai quando si scende un gradino alla volta con ogni grande aplomb. Interrompo subito, Franco, non è una questione di scendere, io continuo a pensare che Antonio Conte dopo Atalanta-Inter abbia sbagliato, continuo a pensare, ma non ho mai messo in discussione le capacità di Antonio Conte. Antonio Conte va confermato, deve andare avanti, è bravissimo, sono convinto che anche lui sappia intimamente di aver sbagliato dopo Atalanta-Inter. Questo non significa che non si possa andare avanti insieme felici e contenti, e in questo momento sono tutti felici e contenti. No, ma io quello che voglio dire... No, aspetta, Franco, ti dico io una cosa, perché io mi ricordo tutto. Un mese fa, forse anche in qualche trasmissione dove eravamo presenti entrambi, io sì. Mi ricordo che si facevano già i bilanci. Antonio Conte, fallimento, la scelta dell'Inter, l'allenatore strapagato, esatto. Questo e quell'altro. Esatto. Io personalmente dicevo sempre, possiamo aspettare la fine della stagione? No, io invece... Posso rivendicare. Era troppo cosa comodo. Cosa rivendichi, Pierluigi? No, posso fare un po' lo sborone sia su Conte, su Lukaku, sull'Inter, insomma, questo ne sbaglio tante, per esempio l'altro giorno con Fabrizio abbiamo amabilmente giocato sul fatto che non avevamo capito nulla sul fatto che le francesi e le tedesche in realtà... Ma in buona compagnia, sì. Non l'ha capito nessuno. Vabbè, però voglio dire, io rispondo per me stesso, e lì veramente non me l'aspettavo. Soprattutto non aveva capito il presidente del Lione che ha detto... A quelli della Lega francese, voi siete dei passi clamorosi, voi avete ammazzato il calcio, io come farò con la Champions? E anche l'Equipe, no? Anche l'Equipe ha pubblicato una roba dicendo siamo dei pirla praticamente. No, sono pazzi, appunto. Quindi voglio dire, vabbè, siamo stati in tanti, però ecco, quella non l'abbiamo assolutamente beccata né io né Biasin né molti altri, e bisogna riconoscerlo. Sull'Inter, francamente, sul lavoro di Conte, e devo dirti la verità, poi magari la storia mi smentirà anche in questo caso, va bene, lo accetterò, ma io penso che oggi sia molto chiaro il fatto che dietro allo sfogo sbagliato, e lo sottolineo, sbagliato, apposta Atalanta-Inter, perché non andava fatto, però ci fosse, secondo me, non un disegno, non una macchinazione, ma semplicemente l'adrenalina di un allenatore che sappiamo com'è, e non voglio, ripeto, ha sbagliato quel giorno, ma è mosso dal desiderio di spostare sempre in alto l'asticella. L'ha fatto negli anni alla Juve con risultati straordinari, e lo sta facendo all'Inter, e i risultati si cominciano a vedere. Sì, questo ma è la grande colla dell'Europa League che aggiusterà anche questo rapporto. E torno da Fabrizio, poi devo salutarlo perché ha impegni non meglio precisati. Magari Ciccio lo saprà, sarà più preciso. Là. No, non lo so, però fa preziosi. Sì, no, ha impegni no, non meglio precisati. È stato assunto da qualche tempo con incarico di maggiordomo e deve assolvere a questi incarichi. È vero, confermo. Sono ma io confermo, sono il maggiordomo e quindi mi sono preso questi 10 minuti, ma poi devo tornare a servire. Senti, allora pensa come stavamo l'anno fa, Fabri. Bei tempi. No, meglio dei tempi. No, Fabrizio, prima di andarti di lasciarti andare a servizio, come ci chiedi, anche troppe volte Conte ha parlato di percorso, no? E questo è un percorso, però adesso a questo punto il percorso si fa interessante verso un futuro che, considerato tutto il resto, è già dietro l'angolo, e con concorrenza in ricostruzione, mi sembra che siamo avanti in quel percorso. Assolutamente sì, io personalmente non avevo dubbi neanche prima, cioè il fatto che la proprietà abbia intenzioni serissime, lo ha detto il primo giorno, ha sbagliato all'inizio, João Mario, Gabigol, eccetera, eccetera, poi non ha più sbagliato, è andato avanti sul lungo suo percorso, che è fatto di un passettino alla volta. In questo momento è arrivato un passettone che può diventare un passo da gigante se ti va bene la finale, ma a prescindere dal risultato della finale, la cosa che deve far star tranquilli tutti quanti i tifosi dell'Inter è che chi comanda, cioè la famiglia Zhang, ha intenzioni serie capacità di investimento e volontà di fare sempre di più, e non sono solo chiacchiere, sono fatti, e quindi tutti devono stare tranquilli, anche Antonio Conte, perché verrà, ogni suo desiderio verrà realizzato. Guarda, l'ho detto qualche giorno fa e lo ribadisco, secondo me, ma ripeto, è una previsione senza palla di vetro, l'Inter si candida, ma da un po', non perché ha vinto ieri sera, da un po' a essere la prossima cosa grande del calcio italiano, cioè la vera concorrenza della Juve, la vera antagonista della Juve. Poi magari adesso arriverà la Roma di Trittin, magari arriverà la Lazio che si... Ci vuole tempo. Non lo so, però ad oggi, se devo valutare il progetto imprenditoriale, mi sembra che l'Inter abbia fatto un passo avanti veramente molto significativo. E la squadra, diciamolo, è già molto forte, perché ragazzi, ci sono un sacco di giocatori in questo momento che sono veramente in primissima fascia. Però scusami Fabrizio, non lo faccio per, come dire, per portare acqua al mio mulino, ma obiettivamente nessuno ha mai messo, nei giorni più complicati e più difficili, scanditi appunto un po' dai click track che aveva sparato Antonio Conte, nessuno aveva messo in dubbio e in discussione la volontà della società né la pazienza da Giobbe di Beppe Marotta. Il punto era che da un certo punto di vista si diceva, allora Conte ha offeso Zank, ha maltrattato i dirigenti, bisogna fargli causa per licenziarlo per giusta causa. Allora scusate, noi di questo dobbiamo parlare, non del progetto di Zank sul quale nessuno ha mai dubitato. Il punto vero è un altro, che se non si coglieva, come non era stato colto, il fatto che comunque Conte, al di là della, l'unica vera delusione è stata obiettivamente l'eliminazione della Champions, aveva comunque tracciato la nuova strada e su quella strada era già a buon punto. Questo è obiettivamente come dire, l'elemento decisivo, certo, che ha diviso i pochi che hanno difeso strenuamente il lavoro di Antonio Conte dai tanti che lo avevano già buttato a mare. No, quindi, quindi per chiudere Fabrizio, la, come dicevo prima, la, la Coppa, l'Europa League è la grande colla che sistemerà anche questo rapporto, e quindi il mare all'orizzonte calmo. Ma è già sistemato. Sì, già sistemato. Allora, hanno già sistemato. Poi io conosco i miei polli, ragazzi, e li conoscete anche voi meglio di me. A seconda di come andrà la finale, qualcuno sposterà un po' la, la mira e il tiro, perché funziona sempre così. Se vinci sei bravissimo, se poi perdi all'ultimo comunque ti faranno passare come mezzo pirla, perché funziona così. Dopodiché io sono invece già contento di come è andata questa stagione. Poi, è in finale, le finali sono fatte per vincerle. Quello che non cambierà sarà Conte, perché vabbè, se Conte vincerà... Vabbè, lasciamo Biasin che deve, che deve andare. Ciao Fabrizio, anche ciao, perché ragazzi, se stava già cominciando a trincerarsi dietro la scaramanzia. Mi raccomando, rimetti i guanti bianchi. No, me l'azzurri ce l'ha. Senti, no, invece secondo me quello che non cambierà sarà Conte, perché Conte, se per caso l'Inter dovesse vincere la Coppa, chiederà nuovi investimenti dicendo: avete visto che possiamo vincere, andiamo avanti. Se perderà la Coppa, avete visto, non possiamo vincere, non l'abbiamo vinto, andiamo avanti. Cioè questa è la incontentabilità di Conte, che però mi sembra che collimi con la scelta di una società. Cioè, il problema è avere Antonio Conte o uno come lui, perché non è che Capello era molto diverso, cioè voglio dire, questa caratteristica degli allenatori che vogliono i grandi giocatori e che vogliono essere molto seguiti sulla strada del mercato, il problema è se tu hai una società che legittimamente non ha i mezzi per supportare questo tipo di ragionamento. Allora, quando hai questa situazione qui, hai un problema oggettivo, perché tu c'hai uno che ti chiede X, Y e Z e tu non glielo puoi dare, e allora questo crea un problema. No, ma nel caso punto, Pier, mi sembra che l'abbiamo sottolineato, l'Inter ha fatto tanto. Cioè, no, ma ragazzi, ma cioè, secondo me economici, questa squadra adesso deve essere ritoccata verso l'alto, ma non devono, credo, essere spostati questi equilibri. D'altra parte, per proseguire nelle tue autocelebrazioni, se Lukaku è questo, sta nell'elite mondiale dei mostri tra i centravanti. Allora, su Lukaku mi arrendo, perché vedo ogni tanto arriva dei commenti, c'è della gente che dice, continua a dire no, però non è decisivo. Sì, la partita prima è stata decisiva. No, c'è gente che ti dice però non ha fatto il gol, non ha cambiato la partita. Vabbè, la partita vabbè, prima l'ha cambiata lui, quella prima ancora l'ha cambiata lui. Tirando tutto, l'anno scorso col Manchester United l'ha cambiata. Vabbè, comunque va benissimo. Non c'è, no, ma se uno segna 10 volte consecutive in Coppa, più decisivo di così, cosa c'è? Scusa, vi faccio soltanto un esempio di come cambiano a seconda dei risultati i social. Allora, oggi, se non ci fosse stato quel risultato, secondo voi non avrebbero cominciato a dire ma perché Eriksen non parte dall'inizio, ma perché hanno speso quei soldi per Eriksen e lui non lo fa giocare? Oggi questo argomento è stato messo, come dicevano in attesa, oggi nel sonno. Questo è. No, ma d'altra parte, ragazzi, in Europa si diceva sempre: in Europa fai strada solo se giochi un calcio iperoffensivo con 8 attaccanti e 3 mezze ali, eccetera. Chiedere, sì, a Gagliardini e Barella, no? Il senso dell'equilibrio dell'Euro Inter sono Gagliardini, Barella e Brozovic in un ruolo più arretrato. Young e D'Ambrosio non sono esattamente delle ali modificate, non sono esattamente quello che fu Zambrot, attaccante trasformato in terzino o quadrato, sono due normali, quelli che una volta si chiamavano terzini, insomma non ha un disegno che fa strillare di gioia gli europeisti, no, Pierluigi? Sì, ma anche detto per onestà che l'Europa League non è la Champions, questo va detto, no? Cioè che poi l'Inter e anche lo stesso Siviglia abbiano tanta strada davanti a loro, questo è indiscutibile, però intanto i risultati stanno arrivando, e stanno arrivando con una crescita che è una crescita partita in partita, di convinzione, di autostima, di maturazione. Quindi io penso che sia una bellissima notizia per il calcio italiano quella di ieri, ribadendo quello che noi sempre ribadiamo: il diritto dei gufi a gufare, ci mancherebbe altro, però se per chi deve invece, secondo me, un po' per lavoro, guardare al senso complessivo del nostro calcio, credo che sia una bellissima notizia e credo che possa essere uno stimolo ulteriore, anche perché in Europa noi negli ultimi anni abbiamo faticato tanto, anche perché Milano non c'è stata. Bravissimo, Milano, bravissimo. Milan, e io penso che, insomma, recuperare una Milano a un certo livello sarebbe fondamentale. In questi anni Roma e Napoli più della Roma, ma anche la Roma, e in qualche modo adesso anche la Lazio, stanno facendo delle cose enormi per riuscire oltre la loro normale dimensione, Piero. Quel passo, quell'andatura, guardando i fatturati, guardando tutto, stanno veramente facendo delle cose straordinarie, l'hanno fatte per anni. Milano, per la struttura economica che ha, per il bacino d'utenza che ha, per la tradizione che ha, è importante che torni. L'Inter sta tornando, il Milan mi sembra che qualche segnale incoraggiante lo stia facendo, ma sai, il calcio italiano deve tornare. Questo per chi ovviamente guarda analiticamente al nostro calcio, no? Alla competitività del sistema Italia nel pallone. Poi questo è evidente che gli milanisti e gli juventini sono tra liberi di fare Siviglia, ma sì, ma evidente, ma tutti sono altro, liberi di fare contro l'Atalanta, altro, contro la Roma, contro la Lazio, contro il Milan, sì, sì, questo, chi ne hai voglia, però, tu, ma la storia, certo, del nostro calcio insegna come Milano è da sempre la grande antagonista della Juventus. Io mi ricordo una battuta di Abatantuono, ti parlo di 20 anni fa, non so quale trasmissione televisiva, in un anno in cui il Milan era uscito dalle coppe, cioè non mi sono mai divertito come quest'anno, che sono libero, posso solo gufare, no? Diego faceva una battuta fantastica. Quindi un conto è il punto di vista del tifoso, un conto è il sistema calcio italiano. Oggi, secondo me, noi dobbiamo recuperare la competitività, qualche passo avanti l'abbiamo fatto rispetto al passato, la strada è ancora lunga, le delusioni ci sono state quest'anno, perché io non mi aspettavo onestamente l'eliminazione della Juve, anche se poi la vittoria del Lione sicuramente dà al Lione uno standing diverso. Beh, hanno steccato in tanti in questo strano finale. È un vero peccato, adesso è qualcosa in più. Insomma, la Juve poteva passare e il Napoli poteva mettersi nelle condizioni di fare qualcosa, cioè, di diverso, di arrivare più vicina, e poi magari ti dice bene, ti dice male, ma insomma di poter andare a smascherare il bluff del Barcellona, che alla fine di bluff si trattava, e non avevamo letto male nell'intera la paura del Barcellona prima di quella partita, ma il senso, Franco, è che la distanza, verissimo, l'abbiamo detto molte volte, cioè si parla di competitività del nostro calcio, di fatto Roma, Lazio, Napoli, Atalanta sono riusciti a vivere in queste ultime stagioni sopra il loro par normale, quindi loro l'hanno fatto ampiamente. È mancata Milano, adesso quantomeno l'Inter è tornata. La distanza tra Inter e Juventus oggi è più, addirittura più sottile di quel punticino bugiardo che le divideva a fine stagione. Il Milan, io la leggo in termini di anni, secondo me è 3 anni indietro rispetto all'Inter. La Roma parte di Friedkin, poi parliamo anche di questo, parte adesso. Insomma, credo che i prossimi anni vivranno su un confronto tra Inter e Juventus. Sì, però vi invito a leggere anche lo scenario, il panorama calcistico italiano dal punto di vista anagrafico. È vero, come dici tu, che il Milan è almeno 2 o 3 anni dietro, ma è anche vero che il Milan in questo momento schiera al lordo di Ibrahimovic la rosa in assoluto più giovane della Serie A. Ed è altrettanto vero che la Juventus ha in questo momento la rosa più appesantita dagli anni della Serie A, che è un po' la spiegazione banale del suo appannamento in questo finale di stagione. Lo stesso ragionamento va fatto nei confronti dell'Inter, e cioè l'Inter secondo me è quella che ha la minore distanza rispetto alla Juve e rispetto allo scudetto, ma è quella che deve secondo me anche provvedere in qualche modo, e lo fa per esempio se tengo conto delle trattative riferite a Tonali. Voi immaginate un centrocampo tutto italiano e tutto giovanissimo con Barella, Sensi e Tonali, obiettivamente ti fa capire che anche questa è una preoccupazione dal punto di vista dell'Inter, per cui è quella che ha il maggior margine di miglioramento davanti, ma anche la maggiore possibilità di aprire un ciclo. Alessandro, provincia di Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno, ma io dico che l'Inter ha inseguito e lo può fare, magari se lo può permettere, insegue una prospettiva di carattere sportivo, ha preso un tecnico che vuole il risultato sportivo e non bada ai bilanci. La Juventus invece lo sta dimostrando, non tanto appannata dall'età, quanto sta facendo un discorso di carattere prettamente aziendale, soprattutto aziendale, perché se non sbaglio, adesso le cifre esatte non le ricordo, ma chi vince la Champions porta a casa un certo numero di milioni, ma anche se arrivi ai quarti ne porti comunque a casa tanti, e gli acquisti dei parametri zero secondo me lo testimoniano. È questo il problema, perché la Juventus è arrivata fino a lì, perché fa un discorso di carattere aziendale e non tanto sportivo, gli interessa relativamente di vincere un... Ma Alessandro, però nel calcio il risultato aziendale va di pari passo con quello sportivo. La squadra che ha vinto gli ultimi 9 campionati, okay? Poi può aver sbagliato un paio di acquisti. L'anno scorso la campagna acquisti non è stata semplice, secondo me la Juve sta seguendo assolutamente una percorso una strada. L'operazione Ronaldo è dovuta esclusivamente al tentativo di fare all-in e di puntare alla Champions. Il problema è vero che ci sta, se la Champions porta a casa campionato, quasi... Franco, appunto, tu tutti gli anni vinci il campionato, cioè questo è come un gioco elettronico dove tu giochi a un certo livello, vinci sempre e a un certo punto dici come faccio a divertirmi ancora, devi alzare il livello. Allora la Juve in Italia vince sempre, poi magari l'anno prossimo non sarà così, ma negli ultimi 9 anni ha vinto sempre, questo è il punto di partenza, perché se no poi dopo diventa questo è il punto di partenza. La Juve ha dominato il calcio italiano negli ultimi anni, a un certo punto si è fatta una domanda su what's next, che vogliamo fare, come si può crescere, come si può tentare l'assalto alla Champions, pur sapendo che la Champions è per sua stessa natura quanto di più fugace, aleatorio e legato ai dettagli e agli episodi che possa esistere. E ha fatto prima la mossa di Cristiano Ronaldo, cioè prima andare a prendere il giocatore che tecnicamente poteva dare uno standing diverso, una personalità diversa, l'uomo che la vinceva sempre la Champions League, veniva dagli anni di trionfi del Real Madrid, non è andata bene, e l'anno dopo ha provato una sfida diversa, la sfida del gioco, la sfida di un gioco che potesse essere più alto, più europeo, più brillante nelle grandi partite, e non ha funzionato. Adesso ci ritroviamo a compirlo. Ma perché punta al risultato, non certo ai soldi. Ma certo, questo tutto, mi sembra evidente, ma anche perché... Tutti puntano al risultato, anche perché nel calcio di oggi... Senza il risultato soldi non arrivano. Soldi. Questo è indiscutibile. Per me semplicemente sono due progetti, quello della Juve e quello dell'Inter, distanti tanto in termini di tempo, perché la Juve viene da 9 scudetti consecutivi. L'Inter però secondo me ha avviato un percorso, e l'avrei detto pure se avesse perso ieri contro lo Shakhtar, perché secondo me è oggettiva questa cosa qui. Poi è ovvio che i risultati di questo agosto e ovviamente la crescita, la possibilità di andarsi a giocare finalmente una finale, questo dà molta più spinta, molta più energia. Sì. Adesso però c'è il prossimo grande nome che gira in Europa, lo sapete, che è quello di Messi, no? Ne abbiamo parlato a lungo ieri, c'è stato questo direttivo infuocato del Barcellona, ha pagato per tutti Setién, che è stato mandato via, prenderanno Koeman, ma Messi è lì sui Pirenei in vacanza con Jordi Alba e Suarez, che sono suoi amici ma che sono in uscita dal Barcellona, Quattrini non ce n'è, potrebbe anche pensare di venire via. potrebbe anche pensare di andare ad occupare la casa che ha appena preso a Milano. Sono al momento solo voci, suggestioni, buttate giornalistiche, ma Ciccio, Messi all'Inter cambierebbe completamente questo quadro? Allora, beh, è evidente che cambierebbe, oltre che per l'Inter, anche per l'azienda Suning, perché vorrebbe dire fare di Messi l'uomo immagine per lo sbarco in Europa dei suoi prodotti e soprattutto dei suoi negozi. Quindi ha, diciamo, la doppia valenza, questa sì, economica e sportiva. Io devo dire francamente che dinanzi a una cosa del genere, a un anno, a pochi mesi dalla rielezione del presidente del Barcellona, io francamente non intravedo uno che voglia mettersi, intestarsi sulla testa l'idea di vendere un giocatore come Messi. Però d'altra parte, nella storia del Barcellona è stato venduto negli anni 60 la sua stella che era Suarez, poi è stato venduto Maradona, poi è stato venduto Ronaldo, anzi Ronaldo in quel caso non fu venduto ma fu pagata la clausola rescissoria da Massimo Moratti. Però questo vuol dire che è sempre tutto è possibile nel calciomercato, soprattutto a certi livelli. È evidente che anche qui, da questo punto di vista, se tu prendi Messi è perché tenti, metti, giocando a poker, prendi tutto quello che hai davanti e lo butti sul tavolo. Varrebbe la pena? Sì, chiaro. Secondo me comunque con Messi vale la pena, tanto per il calcio come italiano, valeva la pena con Ronaldo, come valeva la pena con Ronaldo. Io mi ricordo le cose italiano, sapete che cosa dicevo dire due stati fa e valgono per Messi. Cioè, io non so se dovesse succedere come andrà a finire, perché non ho nessuna certezza, ma so che se Charlize Theron ti dice andiamo a cena insieme non puoi non andarci, a meno che tu non sia un padre di famiglia e dice fedele eccetera. Però io faccio per dirti, no? Cioè, se tu hai un appuntamento con Roger Federer che ti dice andiamoci a fare un set a tennis, ma che non ci vai per favore di fare brutta figura. Ci sono cose della vita che sono talmente grandi, e Messi e Ronaldo sono due robe talmente grandi per la dimensione del calcio di oggi che non puoi dire di no. Così come il Milan, secondo me, quest'anno non poteva dire di no a Ibrahimovic. Soprattutto poi se parti da una condizione che non è una condizione di chi viene da anni di successi. Nel caso della Juve i successi c'erano stati, ma soltanto in Italia, c'era la voglia di andare a scoprire che cosa ci fosse fuori. Poi, dopo due anni, è chiaro che l'investimento Cristiano Ronaldo ha funzionato probabilmente in termini economici, non ha funzionato più di tanto in termini tecnici, perché Ronaldo ha fatto due buone stagioni, da fenomeno qual è. La Juve ha vinto il campionato, ma il salto di qualità in Europa non l'ha fatto, però non mi sento di dire che è colpa tua. Nemmeno dal punto di vista finanziario ha funzionato, perché conosciamo bene qual è la condizione in questo momento dei conti della Juve. Sì, intanto però l'altra, a proposito di distanze, per chiudere, Franco, dall'altra parte di Milano invece si fa fatica a rinchiostrare il contratto di Ibrahimovic. Milan che verrà migliorato da qualche, però insomma mi sembra che la distanza ma sia ancora fatica, no? Ma lì è una questione soltanto di tempi e anche un po' di, come dire, di strategia, di tattica della trattativa, però come dire, lo sbocco mi sembra inevitabile, anche perché obiettivamente oggi dopo tutto quello che si è detto, si è scritto e soprattutto si è deciso in materia di management, cioè conferma di Pioli da una parte e di Paolo Maldini dall'altra, obiettivamente Gazidis ed Elliott hanno un po' le mani legate, perché non possono mica fare se fosse andato in porta la trattativa con Rakitić, avevano le mani libere ed erano in grado di poter fare e di poter imporre loro. Oggi sono lì che devono chiedere a Raiola, insomma, di non maltrattarli troppo, ecco. Sì, però rimane il fatto che la distanza in questo momento è comunque molto grande. Ma quella è una distanza più ideologica, perché se voi parlate con Ibrahimovic vi dirà questo: io non i miei 1 milione in più, 2 milioni in più non mi cambiano la vita né mi cambiano il conto corrente. Chiaro. Quello che voglio è che mi sia riconosciuto uno status, il ruolo che ho esercitato, che gli sia riconosciuto, e quindi devo essere quello che guadagna di più. Sì, che gli venga riconosciuto lo status da fuori classe per quello che ha fatto quest'anno. Esattamente. L'unica cosa è che il campionato, la stagione di quest'anno, questo 2020 del Milan, non deve, secondo me, Pier, trarre in inganno, perché, ripeto, non puoi dire nel 2020 siamo i migliori come punteggio, eccetera. Se non prendono tre giocatori di grande qualità e di grande cifra tecnica, loro faranno un'altra volta su e giù tra il quarto, il quinto, il sesto. Non è così che costruiscono. Sono d'accordo, perché secondo me il Milan ha vissuto adesso un periodo bellissimo, del quale bisogna dare atto a Pioli, ai ragazzi. Hanno avuto il tocco magico, il tocco magico si esaurisce. Sì, esatto, e poi soprattutto hanno avuto il fuoco magico in un momento della stagione tutto sommato a bassa intensità, pressione, no? Senso che il Milan comunque sembrava un po' fuori da tutto, sì, poteva lottare del posto in Europa League, alla fine ha fatto delle cose fantastiche, si è ritagliata qualche grande serata, penso su tutta quella ovviamente contro la Juve, la vittoria contro i campioni d'Italia, ha avuto una continuità di rendimento enorme, ha preso la sigaretta in bocca al posto della prossima Europa League, però insomma dirti... Cioè, il Milan è un'altra cosa, no? Cioè, il Milan è abituato ad altre partite, il Milan è abituato alle grandi partite che non gioca da un sacco e quindi, di anni, e quindi sono d'accordo con te che insomma serve qualcosa in più, però la strada è buona, è tracciata, e quel riferimento che hai fatto all'età media è un riferimento giusto e potrebbe essere veramente l'occasione adesso, dopo anni un po' così, almeno di dare un'idea, un'identità, una strategia, di far capire che c'è un percorso, direbbe, che c'è un Conte. Percorso, esatto, che c'è uno schema che va seguito, e che poi è stato lo schema di Ferguson allo United, tanto per fare un esempio, pensi alle generazioni, lui ci ha messo 2 anni e mezzo prima di vincere il trofeo, però no, ma infatti, ma guarda che andata, il percorso, no? Di questa Inter sono 3 anni che è stato intrapreso, e adesso cominci a vedere cominci luce. La parte migliore di insomma ci vuole del tempo, per questo Friedkin arriva a Roma, diamogli almeno 3 anni, so che in Italia il tempo è merce rarissima, però servono almeno 3 anni per comunque con competenza sì, e soldi costruire. Anche la comunicazione, perché è vero che il tempo, certo. Però la comunicazione è qualcosa di importante, ma è chiaro che se i risultati proprio non arrivano è difficile, però se si fa un discorso chiaro ai tifosi, un ragionamento di prospettiva e di medio termine, questa cosa qui secondo me può ancora essere supportata in termini di comunicazione e di ambiente. Sì. Il problema è fare avanti e indietro, cioè fai un anno il progetto sui giovani, poi dopo fai 2-3 colpi, magari così un po' posticci. E poi il percorso non si vede, caro mio. Esatto. Ragazzi, grazie. Baci e abbracci. Saluti. Ciao. Borsa, torniamo col Bartur. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24 800 24 00 24 Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Per un gol io darei la mia vita, che in fondo lo so sarà una partita infinita. È un sogno che ho, è un coro che sale a sognare. Sei giù dalla notte, 90 minuti per segnare. Nerazzurri, noi saremo qui, nerazzurri, pazzi come te. Nerazzurri, non fateci soffrire, ma va bene, vinceremo insieme. Amala, pazza intera amala. Beh, devo notare che il direttore artistico vuole molto bene a Leo Turrini, e Mario Bartoletti forse avrebbe messo Purple Rain, giusto per sottolineare tristemente l'ennesimo weekend sbagliato della Ferrari. Marino Bartoletti, la canzone giusta se la gioca nella seconda parte. Sì, e quella sarà per lui. Cioè, Vulpe, non è del fame coacta Dulcem uvam de alta vinea pendentem valde appetebat. È il momento delle volpi e l'uva, perché stanno chiamando le volpi che dicono sì, vabbè, ma l'Inter in fondo cosa ha fatto? L'Europa League è una coppa di seconda B, D di serie B, la proprietà è cinese, le stesse volpi che quando la Juventus ha vinto lo scudetto quest'anno diceva sì, vabbè, ma questo scudetto non vale molto perché è stato figlio del Covid, le stesse volpi che dicevano sì, ma l'Atalanta poi in fondo cosa ha fatto, è stata fortunata nel suo girone, le stesse volpi che poi diventano volpi l'una con l'altra, no? Che diceva vabbè, il Napoli poi in fondo ha vinto soltanto la Coppa Italia e poi hanno festeggiato con la mascherina. Ecco, abbasso le volpi, godiamoci quello che abbiamo, per una volta diciamo bravi. Ma sì, lo diciamo in coro perfino a Leo Turrini, la nostra volpe argentata. Come state? Tutto bene? Io sono sempre in coda sulla Piero Cormano. Devo dire che questa introduzione del mio maestro Marino mi faceva venire in mente un episodio nel quale io e lui fummo comprimari, quando partecipammo con la regina Elisabetta e il principe Filippo di Edimburgo nel 1956 a una caccia alla volpe, no? Ti ricordi, Marino, no? Che ci avevano invitati. E Marino diceva, ma un giorno io farò un intervento in una trasmissione di un certo Genta, scomodando la volpe, l'uva e tutto il resto. E devo dire che è stato perfetto in questa introduzione, però avete evocato anche la Ferrari, ma fatemi citare, posso citare Nanni Moretti? Sì. Perché vorrei allargare il discorso anche alla curiosa vicenda di Dovizioso, no? Che vince un gran premio dopo aver segnalato la rottura definitiva con la Ducati. Allora io rammento Nanni Moretti su un palco di fronte ai leader della sinistra quando disse: con questi dirigenti non vinceremo mai. Non so se lo ricordate, no? Allora uno pensa alla Ferrari, alla Ducati e dice: ma effettivamente c'è qualcosa qui che non torna. Ma che prendano l'esempio dal grande presidente Steven Zang, con la sua empatia lì, che faceva selfie ovunque. Tra l'altro voglio dire una cosa che so che gente ci tiene moltissimo, sì. Zang ha firmato il mio appello, ridateci Pardo a Tiki Taka, siamo arrivati a 27 firme perché evitiamo gli assembramenti, però effettivamente c'è un movimento di opinione che sta salendo e quindi io vorrei che tu, caro gente, invece di andare in vacanza, come ti prepari a fare, che no, è lunga. Sostenessi questa sacrosanta battaglia che ha il consenso del mio maestro. Ma Conte ha firmato? Cosa della volpe lunga. Conte ha firmato? Se poi mi cita anche la rana di Esopo, io a questo punto mi stendo proprio qui sulla Piero Cormano in coda. Ecco, grazie ragazzi. No, mi ha detto che come Marino Bartoletti aveva facilmente pronosticato con Vettel, siamo alle ripicche tra marito e moglie, mi pare, no Marino? Siamo un po' più che alle ripicche, sinceramente. Siamo agli stracci in faccia e vaffanculo in diretta, sinceramente. Mi sembra che sia una situazione meravigliosamente familiare, di separati in casa. Che brutto, che tristezza. Cosa c'è di non previsto, sinceramente, umanamente? La soluzione c'è, e visto che in qualche modo il mio amico Leo anticipa gli argomenti, per la Ferrari ci vuole un pilota romagnolo. Ci vuole un pilota romagnolo? Ma qui potremmo però allargare il discorso, perché praticamente Marino ha citato implicitamente un altro classico della Imparenzi, signore, proprio quel bar, scusate, sono in corso per Romano, parlo fuori, sì, è proprio quel Bartoletti lì, sì, è vero, 50 anni fa, se non ricordo, la domenica sportiva, ma guardi, prima ancora, sa, io Bartoletti facevamo un programma alla Eiger, no, alla radio, del fascismo, negli anni 30, eravamo anche simpatici, eravamo io, lui, Lucio Filonomo e Corrado Mantoni, e ci dicevamo, ma forse lì per un giorno giocherà una finale contro il Siviglia, e lì la ballerina di Siviglia, Gianni Boncompagni, di tutto. Ma volevo dire questo, che Marino ha evocato Riccardo Cocciante, a proposito di Dovizioso, Ducati, Ferrari, Vettel, era già tutto previsto, compreso quello che sceglie, capito? Allora, noi ci siamo trovati a vivere questa estate stranissima, post-Covid, da separati in casa, no? Compresi Sarri e la Juventus, quando è arrivato il Lione, che è qualcosa di anomalo. Come volete che dica il povero Vettel? Cioè, è lì, sa che è in scadenza di contratto, secondo me è anche molto dispiaciuto, perché stamattina hanno fatto sapere che aggiungono altri 4 gran premi a questo mortificante mondiale di Formula 1, 2 gare in Bahrain, 1 in Turchia, 1 a Abu Dhabi, fino al 13 dicembre. povero, gli rovinano anche il Natale, capito? Sì, a meno che non decida di andare a fare Natale in famiglia salutando tutta la compagnia. No, prima lui rimarrà. No, però Leo, onestamente, quando ha suonato calice fino in fondo, quando domenica ha suonato il citofono, mi fate salire a cambiare le gomme, e questi non gli hanno neanche risposto, tanta roba, eh. Beh, però il mio antico socio sa benissimo, perché ormai eravamo anzianissimi, figuriamoci, quando un galantuomo che risponde al nome di Liam Brady giocava nella Juventus, lo sapete, venne fatto fuori per far posto a un certo Platini, lo sapete, tirò il famoso rigore a Catanzaro che diede lo scudetto alla Juventus, lo sapete, poi giocò anche nella beneamata, beneamatissima da Leo. Esiste una parola che si chiama professionalità. Esattamente, però questa citazione ennesima del mio coetaneo Mario Bartoletti, siamo entrambi nonuagenari, ha evocato Brady, la famosa partita Catanzaro eccetera, già si sapeva all'epoca, rigore per la Juve, no? era uno slogan, c'era dai, già, lo diede il papà di Pieri, c'era quel rigore, eravamo già in pensione, ma c'era, vai, facciamo che c'era, come c'è la tua firma sulla petizione, perché noi rivogliamo Pardo a Tiki Taka. Io voglio insistere su questa battaglia che ci deve accompagnare fino al tutto, hai capito? Eccoci. Sì, a condizione che l'intervento è una bandana con scritto Pardo come quella di Jovanotti, eh. esattamente. Noi rivogliamo Pardo a Tiki Taka, magari anche con Vandanara. Più Lukaku fa gol, ci avete fatto caso, e non si parla più neanche di Vandanara. Sono le ingiustizie della vita. Certo che no, dibattito è facile, è andato via Icardi, eravamo voi dell'Inter, eravate tutti dispiaciuti. Io no. Vabbè, ma perché tu vivi costantemente nella minoranza, perché ti fa comodo e ti fa gioco vivere nelle minoranze rumorose, Leo. Io sono in maggioranza, sono sulla Piero Corbano, che siamo sempre in coda e non si riesce a capire come mai, hai capito? Qui siamo sempre tutti bloccati, però c'è la gente che è contenta in coda in questo spazio del martedì, perché ascolta il Bar Tour e dice: chissà se Bartoletti si ricorda quella volta quando intervistò Mussolini e gli chiese: ma Duce, perché questa Ferrari non vince? No? Perché senti, allora la Ferrari non vinceva. Senti, no? mi fai un favore, Leo, rispondi a questo WhatsApp che mi manda un ascoltatore Aurora. Cortesemente, avete rotto le palle a parlare della seconda squadra di Milano, vi ricordo che non ha ancora vinto la coppetta. Scrive un anonimo ascoltatore. Fame coacta vulpe salta in vinia uva ma peteba. No, ma però voglio. Sono venute fuori tutti. Posso dire, Leo, che in realtà, guarda, che Icardi lo si amava, soprattutto Carlo, Icardi lo si amava e non lo si amava a corrente alternata, perché ci sono anche le sottovolpi all'interno delle stesse squadre. Certo che vedere Icardi così grasso l'altro giorno, così impotente, per fortuna di PSG le castagne dal fuoco le hanno tolte altre, ha fatto naturalmente godere chi nell'Inter non vedeva sana questa convivenza. Poi veramente a posteriori, e provando ad essere seri, ora che sono le 14.44 dobbiamo arrivare al traffico per sapere se uscirà dall'ingorgo Leo Turini dalla Piero Cormano. Insomma, l'avete detto anche prima, l'Inter sta seguendo un percorso di progettualità che va oltre, come le vogliamo chiamare, le lagne, le imprecazioni contro il destino, il fatto ma quelli vincono tutti, non si può fare nulla. Questa è una metafora che deve valere anche per la Ferrari. Rimboccarsi le maniche. Io sono d'accordissimo. Volevo però completare la risposta all'amico di prima del WhatsApp. Io penso che la coppetta algida l'alzerà il Siviglia, che vince sempre le finali. Ma questo non cambia assolutamente il giudizio. Erano 10 anni che l'Inter non faceva una stagione così. Aggiungo che Icardi all'Inter ha fatto tantissimo e molto bene, però Conte aveva ragione quando ormai un anno fa, quando era, a tutti i costi insisteva per avere questo formidabile giocatore. Dovremmo abituarci tutti, secondo me, a ragionare sulla base dei fatti, e una realtà non può essere distorta poi dall'esito di una finale, perché è una finale sempre una finale, i miei amici della Juventus lo sanno benissimo, si può anche perdere, ci mancherebbe altro. Allora, ci fermiamo per il traffico come suggeriva il professor Bartoletti, perché poi arriva un ospite evocato da non dal direttore artistico che è uscito di scena, ma da Marino Bartoletti direttamente. Arriva un ospite importante qui al Bar Tour, e siate bravi con le domande, perché c'è Paolo Ciabatti, cui potete chiedere di divorzi, vittorie, cose romagnole, quello che volete, dopo il traffico. Bartu, sei unico, meno male che ci siete ragazzi, Dio vi benedica. Tutti convocati. Ce dai cadere come carbone, dalla bocca tua rossa da sarzola, decci la mia passione, bati bati e screcco noci e bati bati, al paseria streba. Allora, questa l'ha scelta non il direttore artistico ma direttamente Marino Bartoletti per salutare Paolo Ciabatti, capo del Muretto Ducati. Ciao Paolo. Ciao Carlo, ciao Marino. Dedicata ciao, a ciao. Te. Dunque, non so se conosci la lingua Paolo, ma romagnolo, formidabile credo. Canzone romagnola si conclude con una metafora meravigliosa che dice tam de un schiaff caddagumbes, tu mi dai uno schiaffo, io ti do un bacio. Sì. Dopo la sofferenza però Paolo, dopo il divorzio annunciato, la vittoria e adesso l'idea che il mondiale sia un obiettivo assolutamente realistico. Sì, è vero, purtroppo durante il weekend del Gran Premio d'Austria ci siamo incontrati con Simone Battistella, con il manager di Andrea Dovizioso, e per una serie di motivi che non è il momento di spiegare, comunque siamo arrivati alla conclusione che non c'erano le condizioni per andare avanti. È una cosa chiaramente che è una situazione che ci dispiace molto, però abbiamo dovuto prendere atto di quello che era successo e abbiamo deciso insieme che a questo punto ci saremmo concentrati da qui alla fine dell'anno nel cercare di ottenere ancora delle vittorie, e ci siamo riusciti domenica grazie a una splendida gara di Andrea, e a lottare per questo mondiale che senza Marquez sembra veramente apertissimo, perché abbiamo visto diversi protagonisti, abbiamo visto Quartararo partire a strombattuto, poi andare in difficoltà, noi abbiamo fatto un terzo con Andrea, poi due risultati a Jerez e a Brno sotto le aspettative nella seconda gara in Spagna e in quella in Repubblica Ceca, e siamo tornati in Austria a riprenderci, se vuoi, questo scettro di del fatto di essere il re dell'Austria, perché in 5 edizioni le abbiamo vinte tutte 5, e quindi adesso siamo con Andrea secondi nel campionato e domenica si corre la sesta, però e domenica si corre la sesta, che si chiamerà Gran Premio della Stiria, metti il nome che vuoi, però come è successo in Formula 1, però è chiaro che la pista è quella e l'obiettivo è quello di cercare di ripetersi. Non sarà facile, perché come hai visto ad esempio le Suzuki sono molto competitive, ma abbiamo alcune idee per fare qualche step ulteriore, e sarebbe molto bello e molto importante riuscire a ripetere questa vittoria, non solo per mantenere la tradizione in territorio austriaco, ma perché ci darebbe una spinta verso la leadership del campionato. Abbiamo visto Quartararo particolarmente in difficoltà, anche Vignales ha fatto veramente molta fatica, forse anche ancora scioccato, no, da quello che era successo, dal rischio che ha corso nella prima gara, però ribadisco, vogliamo giocarcelo fino alla fine questo campionato, e se dovremmo salutarci con Andrea da campioni del mondo lo faremo con gioia e con tristezza allo stesso tempo. Sì, poi Mario Bartoletti avrà qualcosa da dirti in proposito, però volevo far notare a Leo Turrini che Paolo Ciabatti se la passa molto meglio rispetto al suo collega di Muretto Binotto. Ah beh, sicuramente, io sono anche un ducatista per estrazione emiliana, magari la Ferrari in questi 2020 fosse competitiva come la Ducati, però volevo chiedere a Ciabatti, perché a questo punto insomma, ma è vero che avete già preso Lorenzo per l'anno prossimo? Perché quello che lascia perplessi noi tifosi della rossa di Borgo Panigale è la separazione dal Dovi, senza che si sappia bene chi sia poi il top driver per il 2021. Ecco, se su questo ci potesse dire qualcosa in un senso o nell'altro, ci sarebbe di aiuto. Sì, Leo, ti capisco e capisco anche i tifosi. Ti devo dire che prenderemo delle decisioni nei prossimi giorni, direi nelle prossime settimane. Ti devo anche dire che onestamente avevamo deciso di tirare le somme, di fare la situazione dopo la seconda re dell'Austria, e evidentemente Andrea ha ritenuto comunque di voler prendere la decisione lui prima, quindi su questo diciamo che rispettiamo le posizioni. Io penso che siamo più orientati verso una scelta che potrebbe essere eventualmente un giovane italiano che non verso altre strade in questo momento. Credo che la scelta potrebbe piacere addirittura consolare Marino. Paolo, io so che sto parlando con un grande dirigente sportivo, con un galantuomo che stimo, permettimi di dire anche con un amico, per cui non ti voglio mettere minimamente in difficoltà. Tu di che fede calcistica sei? Io, essendo torinese, ancorché ormai a Torino non ci viva più da tanto tempo, sono per tradizione familiare juventino, perché mio padre, che era di Firenze, arrivò a Torino quando era bambino, come tutti i non torinesi, diventò tifoso da Juventus. A suo tempo, da juventino, sì, da sportivo, cosa hai pensato del congedo che avvenne fra Del Piero e la Juventus? Ovviamente un grande dispiacere, perché un campione che ha vinto tanto con la squadra e che probabilmente può dare ancora tanto, decide di lasciare, o comunque verifica che non ci sono più le condizioni per continuare, lascia la mare in bocca a tutti gli appassionati, e penso che sia esattamente la stessa sensazione che provano gli appassionati per questa storia che finirà alla fine di quest'anno tra Ducati ed Andrea. Ma devo dire, cosa avresti che... fatto al suo posto? Al posto di chi? Di Andrea, non di Del Piero. No, beh, è difficile dirlo, cioè, nel senso che Andrea ha preso una decisione e la dobbiamo rispettare. Quindi ti dico, a me personalmente dispiace che le cose siano andate così, però bisogna anche rendersi conto che ogni tanto ci sono delle situazioni complicate e bisogna accettare che non si riesca a trovare un accordo. Ecco, poi ripeto, non è il momento, e l'abbiamo deciso insieme ad Andrea Simone, per parlare più nei dettagli delle cose che hanno funzionato e non hanno funzionato in questo anno così strano per tutti, no? Con un campionato che è iniziato molto tardi. Forse se il campionato fosse iniziato normalmente in Qatar, la situazione si sarebbe evoluta diversamente, ma coi secoli, ma ovviamente non si fa la storia, e quindi rimane questo rimpianto, ma rimane anche, per fortuna, la volontà forte da entrambe le parti di giocarcela fino all'ultimo e di vincere tutto quello che si può vincere, e di puntare, ripeto, a un mondiale che in questo momento sembra un obiettivo assolutamente alla portata. Dire, non sei tenuto a commentare che la Ducati nei confronti di Andrea Dovizioso poteva far meglio? Ti lascio questo commento e lo accetto. Senti Paolo, l'altra questione invece è quella dell'incidente pazzesco che abbiamo visto sì, domenica. La vostra posizione qual è? Perché ne abbiamo sentiti tutti i colori. Oggi abbiamo letto l'intervista di Zarco, peraltro operato, perché ha avuto la frattura al braccio, forse rientrerà, no? Sì, guarda, Johan, che ho sentito anche stamattina, stava andando a Modena, perché i nostri specialisti di fiducia sono il professor Cattani, il professor Tarallo, che lavorano a Policlinica di Modena, e quindi lo opereranno domani mattina. Credo metteranno una vite per fissare questa frattura nello scafoide. Io onestamente credo che sia stato un incidente di gara, perché credo che Giovanna abbia superato Morbidelli, e dai nostri dati, della telemetria, dall'acquisizione dati, lui quella frenata lì l'ha fatta più tardi di tutte le frenate che aveva mai fatto nello stesso punto nei giri precedenti. Quindi io penso che sia stata ovviamente una circostanza molto sfortunata. Credo che Morbidelli sia stato un po' risucchiato dalla scia e abbia frenato tardi tamponandolo. E quello che devo dire è importante è che alla fine è un incidente così spaventoso che mi ha riportato alla mente un po', purtroppo, quello che è successo a Monza nel 73 tra Pasolini e Saarinen, e non abbia avuto conseguenze, perché una moto che vola dall'altra parte della pista quando ci sono dei piloti che stanno passando può creare dei disastri. Quindi credo che in questo caso siamo stati tutti molto fortunati. Poi ognuno avrà le sue opinioni su di chi siano le eventuali responsabilità, però davvero io penso che dobbiamo solamente ringraziare il fatto che questo incidente così spaventoso non abbia avuto in realtà delle conseguenze gravissime come poteva avere, avrebbe avuto, succedere. Ecco, guarda, a me è colpito molto quello che ha scritto oggi Agostini sulla Gazzetta dello Sport. Ho aperto il portafoglio e ho tirato fuori due santini che porto sempre con me e insomma in qualche modo li ho ringraziati, perché è una cosa così terrificante, io non me la ricordo. Paolo ha citato un episodio, non so tu Marino se ricordi qualcosa del genere, però guarda, Paolo ancora una volta si è dimostrato una persona molto competente, perché mi è molto stupito che fino adesso anche i tuoi ospiti ieri non abbiano colto la tragica comparazione fra questo incidente e quello del maggio 73 a Monza. Era esattamente la stessa cosa, solo che allora purtroppo andò molto male, quello che rimbalzò il pista colpì e uccise quello che era in quel momento il più grande pilota del mondo, questa volta è andata veramente bene. Tu ti ricordi qualcosa di così terrificante, Leo? No, beh, ha detto bene Marino, ha detto bene, ha detto prima Ciabatti. Io quel 20 maggio del 73, quando ci fu la tragedia di Pasolini e Sarinen, l'ho vissuto veramente come un giorno nerissimo. Ma io credo, dato che tu hai citato le belle parole di Iago oggi sulla Gazzetta dello Sport, forse sarebbe sufficiente far leggere a Zarco quel passo del Vangelo dove c'è scritto non fare agli altri quello che non vuoi venga fatto a te. Alla fine più disqualifiche, sospensioni e tutto ciò che conta sempre nella vita di ognuno di noi è avere la consapevolezza che gli altri siamo noi. Io capisco che chi fa di mestiere il pilota ha l'abitudine a spostare sempre più là il senso del limite, ma deve avere sempre la consapevolezza che un limite esiste ed è proprio il rispetto per il prossimo. Leo, devo dirti che però in questo... non voglio fare l'avvocato difensore di Zarco, che peraltro secondo noi è stato penalizzato ingiustamente nella gara precedente, perché se vuoi, adesso non vorrei andare fuori dal tema, ma Pole Espargaró ha fatto esattamente la stessa manovra in questa gara con Oliveira, infatti sono cascati tutti e due, quindi va lungo, poi rientra senza guardare. In questo caso ti dico, io credo che lui abbia fatto quello che riteneva di fare e purtroppo dobbiamo ricordarci che quel circuito, in quella posizione, le moto vanno fortissimo e quindi per come è stato disegnato il tracciato esiste questo rischio che si è verificato, che poi se le moto vanno dritte arrivino dall'altra parte della pista, quindi magari questo dovrà portare qualche altra considerazione. Sì. Sono d'accordo con te, quello che volevo dire io vale per tutti, non è che vale solo per quello che voglio dire è che siccome sono uscite alcune cose molto antipatiche, allora vorrei che nessuno pensasse all'intenzionalità di Johan di fare qualcosa per creare problemi a nessuno. Evidentemente è un pilota aggressivo, ha pensato di riuscire a sorpassare e a poi chiudere il sorpasso in quel momento lì, era un punto difficile e purtroppo Franco Morbidelli in quel momento lì poi l'ha toccato e si sono toccati con la velocità. Però, insomma, io non credo che si possa realisticamente sostenere sul qualcosa a favore dell'intenzionalità, Paolo. Sinceramente no, mi sembra folle pensare alla parola dolo, cioè possiamo pensare alla colpa, incidente di pista, però pensare all'intenzionalità secondo me è semplicemente folle. No, però Carlo, perdonami, solo per tirare una piccola conclusione senza demonizzare nessuno, ci sono molti giovani piloti in questo momento nella MotoGP, non è il caso di Zarco che comunque ha già una sua esperienza, però si sta un po' mototraizzando, come vedi, c'è un'esuberanza sulla quale tutti dovrebbero fare un po' di riflessione, soprattutto in un anno in cui mi sembra che sia la wild card per la disponibilità del titolo, che in qualche modo ha lasciato vacante per certi verti market. Ecco. Certo. Tutti un po' più tranquilli non guasterebbe, fermo restando l'agonismo che deve sempre esserci. Sono assolutamente d'accordo. Insomma, ricordiamoci che un grande campione che in questo momento è fermo, che è Marc Márquez, diciamo che certi tipi di manovre ne ha fatti tanti negli ultimi anni. Quindi, insomma, magari bisognerebbe dare il buon esempio e fare in modo che insomma tutto questo, questi tipi di manovre che sono lecite ma che possono avere comunque delle conseguenze venissero segnalate ai piloti in modo che tutti si adeguassero a partire da campione del mondo. Certo, grazie Paolo, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie come sempre. Io ringrazio anche i miei amici, Leo Turini e Marino Bartoletti. Chiudiamo qui il Bar Tour naturalmente per riaprirlo tra una settimana. Ciao ragazzi. Allora, in ritardo mi fermo, poi affrontiamo l'argomento Roma. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Tutti convocati. Davvero sarebbe splendido se Pallotta non si facesse vedere davvero proprio più a Roma. Lo dico veramente il concetto di serenità, diciamo, in Italia sappiamo che anche dal punto di vista politico è piuttosto minaccioso, ma io lo dico davvero invece con serenità, recuperando il termine autentico, con serenità. Lui non è più venuto, non si faccia proprio più vedere, perché davvero sarebbe un'onta vedere il suo faccione all'Olimpico. Allora, un paio di mesi fa così parlava Fabrizio Roncone, che evidentemente è stato ascoltato dagli dei del calcio. Sarai contento adesso, Fabrizio? Beh, insomma, diciamo così che si ha una stagione nuova, a Roma c'è grande attesa, grande entusiasmo, grande speranza, grande ottimismo, come succede sempre in questi casi quando si esce da una situazione che francamente era diventata insostenibile, con un presidente che non veniva a Roma da 2 anni. Una società ufficialmente in vendita da oltre 1 anno, un campionato modesto, insomma arriva un imprenditore che fa business, che non fa speculazione, questo almeno dice la sua storia, viene e, come dire, trova una squadra che non è evidentemente tutta da buttare, vanno a portare dei miglioramenti, c'è una situazione economica complessa e della quale bisogna tener conto. Poi io, diciamo, se ho la possibilità, volevo dire un paio di cosette, certo, sull'ambiente romano, sulla situazione romana, sul clima, l'atmosfera che già un po' comincia a ribollire, insomma. Cioè? No, è che, diciamo, io in queste ore, francamente, allora, Roma è una città. Il mondo del tifo romanista è abbastanza particolare, tutte le tifoserie sono particolari, diciamo che quello, l'ambiente romano è piuttosto complesso, gli allenatori che ci sono capitati lo sanno perfettamente. Allora, in queste ore comincio a cogliere qua e là, ma diciamo mi colgo più che altro di mestiere, di abitudine, con una sensibilità particolare, piccole cose che, come dire, mi sembrano del tutto fuori luogo in questa fase. Cioè comincio a sentire gente che dice adesso deve assolutamente richiamare Totti, deve assolutamente magari arriva De Rossi in panchina. Allora, certamente il compito di questa società è anche quella di ristabilire una connessione di affetti con la tifoseria, e questa connessione era andata perduta, il wifi del cuore si era spezzato, quindi questo è un compito che certamente ha la società. Poi questi discorsi su Totti francamente mi fanno venire un po' le bolle, nel senso che questa è una proprietà che è venuta qui, ha salvato la società da una situazione disastrosa, l'ha tolta a un presidente che non era più presidente, ci ha messo un sacco di soldi, adesso dovrebbe chiamare Totti per fargli fare che cosa? Cioè questi hanno messo i soldi, arriva Totti e fa il presidente? No. Totti non viene a fare la Madonna Pellegrina, lo disse già con Pallotta, a Totti, giusto o sbagliato che sia, piace decidere. Ma io non credo che questo signore americano che è venuto qui e che fa affari in tutto il mondo, anche con un certo successo, dia in mano un giocattolo a Totti. Quindi queste richieste mi sembrano pretestuose e mi sembrano, come dire, riaccendere il focherello che poi porta a climi malmostosi. Diciamo... Su De Rossi è chiaro che saremmo tutti felici di vedere De Rossi sulla panchina della Roma vincere uno scudetto, però è un percorso non facile, è un percorso complesso, non esiste l'equazione grande allenatore, grande calciatore, grande allenatore, non è un automatismo. Speriamo un giorno di avere De Rossi sulla panchina della Roma, però non cominciamo a invocare De Rossi in panchina, Totti responsabile tecnico, perché significa creare da subito i presupposti perché questo signore che è venuto qui abbia delle condizioni, si trovi subito davanti a delle condizioni per far felice l'opinione pubblica. Sono d'accordo con te, anche perché Totti non ha mai fatto presidente, ha fatto il dirigente per un certo periodo, ma non è certo un uomo di grande esperienza, mentre nella situazione in cui la Roma credo serva un dirigente di grande esperienza, e Totti non ha, De Rossi non ha mai allenato un momento in vita sua, e non credo che in questo momento sia il caso di rischiare in nome del romanticismo. È questo che dici? Dico questo, dico che un rischio di questo tipo se lo può prendere il Real Madrid quando chiama Zidane, se lo può prendere il Barcellona quando chiama Guardiola, in altre se situazioni. Lo può prendere fino anche la Juve quando chiama Pirlo. Ah, è chiaro che la situazione della Roma è completamente differente. Cambio di proprietà, situazione economica complessa, campagna acquisti da costruire, non c'è un direttore sportivo. Mettere De Rossi in queste condizioni mi sembrerebbe soprattutto creare un problema non solo alla presidenza, anche ma anche a De Rossi stesso. Non c'è dubbio. Non temi che tra non molto Friedkin comincerà a parlare di stadi, che sia Tor di Valle, Tor Vergata, Fiumicino o sulla Luna Romana, dove vuoi tu. Anche Commisso a Firenze sta perdendo la pazienza. Questo refrain l'abbiamo già sentito da ogni presidente non italiano che è venuto e non conosce quindi gli intrighi italiani, è una cosa ben nota. Vado, faccio lo stadio, faccio impianti come si fa in tutto il mondo, qui non è tutto il resto del mondo, ci sono logiche particolari. Non credi che anche Friedkin tra un po' comincerà a sollevare la questione stadio? Guarda, Friedkin, questo lo so per certo, ha trattato la Roma a prescindere dallo stadio, perché ha chiarissimo, a differenza di Pallotta che fu paracadutato a Roma e fu messo nelle mani di Parnate, sì, e non aveva capito come funzionano le cose a Roma e in Italia più in generale, Friedkin ha preso informazioni, quindi il nuovo presidente della Roma è perfettamente cosciente delle difficoltà che ci sono a Roma e in Italia per fare qualcosa. Nella fattispecie sa perfettamente che quel terreno a Tor di Valle presenta una serie di difficoltà e che il progetto è di difficile realizzazione. Non mi stupirei se un uomo di affari così smaliziato come questo nuovo presidente americano avesse già in mente di costruire lo stadio con tempi diversi in un'altra zona di Roma. Sì, la questione del tempo è fondamentale, perché lo stadio, se si fa, non si fa domani e nemmeno dopodomani. Quindi però diciamoci la verità, lo stadio ha avuto delle difficoltà perché è stata individuata un'area, diciamo la più complicata area di Roma era quella dove vorrebbero costruire questo stadio. Uh-huh. È una zona dove può essere inondata dalle acque, è una zona che non è servita da strade, quindi è tutto da diciamo che se individuano una certa zona di Roma, individuano dei terreni di proprietà di persone disposte a collaborare per la costruzione dello stadio, uh-huh, diciamo io ho qualche speranza che lo stadio a Roma si faccia in tempi molto più rapidi, molto più rapidi. Abbiamo in linea anche Stefano. Devono trovare il costruttore giusto. Sì. Abbiamo in linea anche Stefano Melocaro. Ciao Stefano. Ciao Carlo, eccoci. Ciao, come la vedi questa nuova puntata di Un Americano a Roma? Abbiamo esaurito la cinematografia possibile. È molto divertente seguire tutte queste sorti che legate a fili tripli e quadrupli, no? In realtà poi a me piacerebbe molto che ci si concentrasse sull'aspetto sportivo, ma ormai, capito, per parlare di calcio dobbiamo parlare di bilanci, dobbiamo parlare di azioni quotate in borsa e dobbiamo parlare di aree edificabili. Tutto questo, secondo me, se uno fosse stato su Marte una ventina d'anni e poi fosse tornato qualche giorno fa, avrebbe, secondo me, di che sorridere. Cosa dici? Sì, è vero, Fabrizio Roncone, è vero questo. È anche vero che, per chiudere con te, Friedkin riparte da una situazione che non è esattamente rosea, quella attuale della Roma. No, la situazione dei conti è complicata. Ma lui certamente ha comprato una cosa che sapeva avere questi conti. La Roma, i conti della Roma sono in possesso della nuova proprietà da mesi. Tutti i conti sono stati studiati, tutto il deficit è chiarissimo. Io credo che da questo punto di vista non avremo sorprese, nel senso che loro sono perfettamente coscienti di aver preso una cosa che va sistemata. Lo stadio, a mio parere, viaggia su un altro binario, completamente differente. Io credo che, a differenza di Pallotta, Friedkin abbia avuto contatti importanti in Italia, abbia avuto già colloqui illuminanti. Ci sono persone del calcio italiano e romane che ricoprono anche ruoli importantissimi nello sport italiano, che hanno spiegato, io credo, a Friedkin qual è la situazione. E gli hanno spiegato che lo stadio a Roma non si è fatto finora perché è stata scelta una zona dove non si poteva costruire uno stadio e soprattutto con un costruttore che non era certamente il principale costruttore romano. Grazie Fabrizio, a prestissimo. Ciao Fabrizio. Invece rimango tra gli Stati Uniti e Roma con Stefano Merocaro su altre tematiche, perché nel tennis gli US Open perdono un pezzo al giorno, ora tocca all'Alep, quindi sì. Il ranking dei partecipanti è molto più povero. In compenso a Roma ci sarà una specie di torneo del Grande Slam fuori tempi. Sì, perché molti di quelli, fermo restando che quello che dici tu è giusto, ci sono più defezioni tra le donne che tra gli uomini, perché tra gli uomini, insomma, tutto sommato il cast è abbastanza completo, ovviamente se escludi Federer e Nadal, che sono detto così suonano forti come nomi. Tra le donne effettivamente le mancanze sono tante, soprattutto di alto livello, però sai, dobbiamo abituarci comunque a considerare, Carlo, l'annata 2020 un'annata in ogni caso che ricorderemo con un asterisco, sì. Cioè quell'anno in cui successero quelle cose particolari, vale per il calcio, vale per la Champions League e vale anche per il tennis. Si ricomincia dagli Stati Uniti con grande prudenza, guardandosi molto bene attorno in tutti i sensi, però provando a ricominciare come secondo me è giusto fare, e poi a Roma ci sarà un bello showdown, perché comunque molti di quelli che non giocheranno negli Stati Uniti giocheranno Roma. La Federazione Italiana, il Presidente Binaghi, insomma, stanno lottando per ampliare gli spettatori. Inizialmente, fino a qualche settimana fa, il torneo veniva organizzato con zero spettatori, però capisci che gli sponsor, e sono tanti, non sono esattamente contenti di questa situazione, per cui adesso si è arrivati a trattare, a negoziare una cifra che mi pare ad oggi sia 6.200 spettatori, di una capienza totale al giorno lì che sono 30.000, però sai, insomma, il Foro Italico è grande, gli spazi sono all'aperto, il centrale è anche molto ampio, contingentando gli ingressi e con grande cautela secondo me ci si può provare. Sì, con un'organizzazione che immagino anche lì sarà molto capillare, no? Perché verrà creata una sorta di bolla romana? Non nel senso letterale del termine, cioè New York sarà veramente una bolla dentro la quale possono avere accesso soltanto atleti e intimissimi, tant'è che, per dirti, Zverev va senza il suo nuovo allenatore che è David Ferrer, sai che si è creata questa strana coppia, però Ferrer non va, Santo Padre non va con Berrettini, Piatti non va con Sinner, perché comunque entrano veramente in pochi, e quei pochi se possono risparmiarsi lo sono risparmiando. Roma sarà una situazione un pochino più morbida sicuramente. Allora, se aspetti un attimo, c'è il traffico, sì. Ma poi ti porto in un'altra bolla americana in questo caso, quindi potrai toglierti anche qualche curiosità, perché c'è Simone Sandri che è nella bolla dell'NBA in questo momento, certo. Allora, traffico e poi parliamo con lui. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque, Stefano Melocro, venga con me che la porto nella bolla di Orlando. Ciao, con piacere, ciao con Simone Sandri. Buon pomeriggio, Carlo. Buon pomeriggio. Senti, dimmi della bolla di Flushing Meadows, che c'è Melocro che è particolarmente curioso. Che si dice in America di quella della prossima bolla che si aprirà? Sì, non è proprio una bolla, perché per essere una bolla vuol dire che è sigillato. Quello di Flushing Meadows ha le porte aperte, diciamo, deve essere testato. Ci saranno pochissimi giornalisti, i giocatori saranno pochi, non ci sarà il pubblico, però la bolla veramente, il concetto di bolla che viene definito da questa definizione data dalla NBA, che perché praticamente sta facendo scuola, non credo che sia applicabile al discorso di Flushing Meadows tecnicamente. Anche se tu, Stefano, quest'anno non ci puoi andare, quindi questo per te bolla è. No, quello quest'anno non se ne parla nemmeno, però ci rifacciamo con Roma, eh. Addirittura si parlava di tabellone a 96 giocatori, dai normali 64 che sono, poi questa cosa non si farà, però volevano aggiungere posti in tabellone proprio perché c'è grande voglia da parte di tutti quelli che non saranno a New York di essere in Europa, e cioè a Roma. No, tra l'altro leggevo, cioè, qualche tempo fa è stato pubblicato un estratto del regolamento inviato ai tennisti per partecipare agli US Open, di totale scarico di responsabilità. Io ho detto vabbè, fa scalpore, ma mi sembra una cosa normale, cioè gli organizzatori non vogliono correre rischi, proprio per quello che viene ridotto il personale al seguito, no Stefano? Non vogliono correre rischi. Andando a leggere tra le righe, insomma, il regolamento è molto dettagliato, ma andando a leggere, ragazzi, se venite sappiate che è a vostro rischio, cioè questo è il grande leitmotiv, e probabilmente è anche giusto che sia così. Il ragionamento è: noi facciamo del tutto per seguire tutte le norme più, come posso dire, più restringenti, diciamo, per fare in modo che nessuno si ammali, però se poi venite non fate causa a noi. Sì, certo. Prima di salutarti, voglio toglierti qualche curiosità da chi vive nella bolla americana? Stefano. Sì, sono curioso di capire che quanto incide l'assenza del pubblico, che è una domanda tanto banale quanto importante, secondo me. Perché nel tennis abbastanza poco, il calcio l'abbiamo visto tutti, mi piaceva sapere nel basket. È la domanda che si fanno tutti, e che fanno tutti soprattutto all'inizio dei playoff. È interessante, sì. vedere, perché è ovvio che ci sono... Dal punto di vista romantico è ovvio che non è bello giocare col pubblico, non c'è il fattore, tra virgolette, il fattore campo, ovviamente, ma una delle cose interessanti è come si riflette a livello arbitrale. Ci sono molti più fischi, gli arbitri dicono che sentono i contatti molto di più, per cui fischiano di più e sono molto più severi. Ieri abbiamo avuto la riprova con l'espulsione, secondo me molto ingiusta, di Porzingis nella prima gara di playoff, per cui da un punto di vista puramente tecnico c'è anche una valenza della mancanza di pubblico, e i giocatori si devono abituare, non c'è niente da fare. Però vi faccio una riflessione filosofica quasi. Secondo me l'assenza del pubblico, al di là di questi aspetti che sono molto tecnici, io credo che anche quell'invisibile iniezione di adrenalina che comunque ti dà a giocare, questo credo valga per tutti gli sport, tennis compreso, quella roba lì che ti dà la sensazione di giocare davanti alla gente, secondo me è quella che fa la differenza, perché le vedi, sono partite spesso in tutti gli sport, dal calcio al basket eccetera, molto tecniche, molto tattiche, molto sofisticate, però se vedi che anche visivamente ti manca qualcosa, Stefano. Sì, tu dici un po' meno emotive. Cioè, l'emotività conticchia qualcosa, no? Djokovic, comunque, ti ricordi che Djokovic ha sempre detto di trarre energia dal, esatto, tipo contro che gli fa il pubblico quando gioca contro Federer, no, per dire, il primo che mi viene in mente. Dicevi... No, volevo sottolineare questa cosa, che avete ragione. Ieri parlavo con Bellinelli quando è uscito dalla bolla e mi faceva un esempio pratico. Lui mi diceva: noi abbiamo giocato una partita nei seeding games contro Philadelphia, tecnicamente una partita fuori casa, eravamo sotto di 18 punti e l'abbiamo ripresa, poi l'hanno persa poi all'ultimo, allo scadere, però abbiamo ripreso questa partita che secondo lui avessimo giocato a Philadelphia, proprio da un punto di vista emotivo del pubblico, non l'avremmo mai ripresa, per cui proprio hai ragione, anche anche il fattore intimidatore, ma anche c'è un subconscio dell'atleta che vede sì. una montagna molto più alta da scalare col pubblico contro. Sì, non c'è dubbio. Grazie cioè, Stefano, io ti ringrazio. Grazie ragazzi, grazie. A molto presto. Continuo Ciao. Invece ad Molto. Approfondire con Simone Sandri, discorso che abbiamo visto le prime partite dei playoff, oltre al play-in con Portland, che ha fatto accesso nel tabellone principale subito a pronti via, ha vinto l'unica partita. È una formula molto particolare, per cui quella meglio classificata, se ne vinceva una, bene, andava ai playoff, se invece perdeva aveva un'altra possibilità. Portland l'ha sfruttata subito con Memphis, adesso è a sfidare i Lakers. Però continuano queste storie da record, Simone, con nella notte Utah che pure ha perso, però abbiamo avuto una prestazione da 57 punti di Donovan Mitchell. Questa è la terza volta che un giocatore segna così tanti punti, terza prestazione all time. Gli altri due che hanno fatto cose del genere si chiamavano Elgin Baylor e Michael Jordan. Sì, e a seguito di questa partita spaziale di Mitchell abbiamo visto i 42 punti di Luka Doncic, che è il record per un giocatore alla prima partita di playoff, per cui ce ne stiamo godendo abbastanza, diciamo che di prestazione a livello individuale non possiamo sicuramente lamentarci. Diciamo che è iniziato come meglio poteva sperare Adam Silver, partite emozionanti, grandi performance individuali, e oggi poi ci sono, per quanto ci riguarda, forse la partita più attesa, che è la serie più attesa, quello Los Angeles, nella quale no, per quanto ci riguarda, credo che sia Gallinari che sfida Mike D'Antoni, che è forse la sfida più attesa e anche più in equilibrio di tutto il tabellone. E poi, ovvio, ci sarà quella che invece per gli americani è la serie più attesa. Però, se io devo essere sincero, io ho dei serissimi dubbi che Portland, con la difesa che ha, possa mettere davvero in difficoltà i Lakers. Soprattutto non hanno una risposta difensiva con il fatto che Ariza non è andato nella bubble a LeBron James. Per cui non riesco, anche con i 50 punti di media, facciamo il caso di Lillard, non riesco a vedere come possano veramente mettere in difficoltà i Lakers alla lunga. Anche se Blazers. Portland è comunque una squadra on fire, no? Perché da quando è lì nella buona non ha mai perso, mi pare. No, hanno perso due partite, ma a parte quello, hai assolutamente ragione, è la squadra che sta, una delle squadre che sta meglio nella bolla, però è una squadra che difensivamente ha concesso nella bolla 123 punti di media, e soprattutto veramente non ha nel roster, non ha un uomo che può marcare LeBron. Io non riesco a vedere i matchup nei quali Portland possa veramente, non dico vincere quattro partite, che lo trovo assolutamente impossibile, ma anche veramente mettere in difficoltà magari a due o tre partite. Per cui credo che sia una serie interessante, perché ovviamente parliamo del giocatore più in forma della bubble, che è senza dubbio Damian Lillard, e parliamo del giocatore che tutti vogliono vedere nei playoff, che è LeBron James. Però secondo me la serie più bella, la serie più interessante, la serie veramente da guardare e da viverla tutta sarà Houston D'Antoni contro Gallinari, due vecchi numeri 8 di Milano, due numeri 8 più amati della Milano del basket. Ma l'America come sta vivendo dopo 20 giorni d'inizio di questi di questo esperimento sportivo sociale? C'erano grandissime perplessità, si è adattata a questo nuovo modo di vedere lo sport l'America, o non gliene frega niente? Allora sì e no, da un certo punto di vista è una la risposta è che la bolla funziona, la bolla fatta così come l'ha fatta l'NBA, con tutte le precauzioni, con tutte, ovviamente devi avere grande disponibilità economica, devi avere grandi strutture per adottare questo sistema in Europa o da qualche altra parte, devi avere la possibilità di spendere 150 milioni di dollari per crearla questa bolla, quello che ha fatto la NBA, ma la bolla funziona. Il problema credo che sia trasformare questa idea della bolla alla lunga. Puoi fare una bolla per 6-7 mesi, 8 mesi, non credo, i giocatori non accetterebbero mai una cosa del genere. Da un punto di vista del prodotto sta funzionando, anche se i riscontri dei rating non sono spaziali, c'era un po' da aspettarselo, perché comunque siamo in estate, la gente comunque non è abituata a vivere lo sport così in questo periodo dell'anno. Le partite, però, il prodotto è veramente di grande qualità, e questa è la cosa che credo che sia inaspettata, che i giocatori siano arrivati così in forma e abbiano prodotto questo tipo di basket in questo contesto. Questo è credo che sia abbastanza sorprendente. Sì, sorprendente anche la condizione fisica con cui sono arrivati lì in questo periodo, sai, qui c'è la disputa, ma le squadre francesi che non giocano da 6 mesi, vanno in Champions League, ne troviamo due in semifinale. Onestamente mi ha sorpreso anche il livello di chiaro, sono professionisti, hanno lavorato anche durante il lockdown, tutto quello che vuoi, però è passato davvero molto tempo. Non pensavo che potessero riaccendere l'intensità, la corrente così velocemente. Sì, e sono proprio d'accordo. Infatti vediamo proprio, soprattutto delle squadre che hanno magari delle caratteristiche come quella di Toronto, che è l'aggressività difensiva, l'atteggiamento, l'abnegazione, anche la disciplina difensiva, cose che magari se non ti alleni per un lungo periodo puoi magari perdere, soprattutto dal punto di vista atletico. E invece sono squadre che sono arrivate e sono sempre al massimo anche nella bolla, ed è interessante anche capire tecnicamente che cosa hanno fatto davvero i giocatori nel lockdown, perché un conto era le cose che non potevano fare, un conto invece le cose che hanno fatto. Certo, e secondo me sono tanti quelli che hanno fatto cose che probabilmente non potevano fare, hanno fatto cose proibite, viene questo sospetto. Esatto. Viene su questo sospetto anche a me. Intanto prepariamoci a questa cavalcata del playoff, è appena iniziata, si conclude il tutto, ve lo ricordo, alla metà di ottobre con le finals, quindi manca un sacco di tempo, un sacco di partite, un sacco di chiacchierate. E poi nel frattempo rivedremo anche LeBron in maglia Looney Tunis, altra delle grandi novità di questo momento. LeBron che cambia maglia e mette quella di Bugs Bunny, come fece Michael Jordan. Sono uscite le immagini, no, Simone? Sì, sì, no, infatti è fantastico. LeBron, devo dire che è veramente un personaggio a 360 gradi dal punto di vista del suo approccio al business, dal messaggio sociale e senza dimenticare comunque che è comunque ancora il miglior giocatore dell'NBA, nonostante non sia meritatamente, non sarà MVP, ma credo che se chiedi chi è il più forte giocatore dell'NBA, il 95% dei giocatori NBA ti risponde. Ciao Simone, no, grazie. Ciao. Grazie a voi. Ciao Simone Sandri da Orlando. Chiudiamo qui questa puntata di Tutti Convocati. La prossima è domani alle 2. Grazie a Edoardo Lavezzari in redazione, Carmelo Auricella e Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti. È stato una montagna russa. Grazie ragazzi, grazie. Andate in vacanza, divertite perché ve lo meritate. Ok. Saluti. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.